Linee d'ombra di Matteo Caccia. Più carica, avevo avuto più entusiasmo, avevo riscoperto anche una sessualità più vivace. La prima volta che ho baciato un uomo che non fosse mio marito dopo 20 anni di convinta, serena e appagata monogamia è stato 2 sere fa. Storie di un appuntamento tardivo, una festa sorpresa e una scoperta inaspettata in una puntata che si intitola Non l'avevo considerato. E che si dice, quando... Niente, cosa posso dire? Sono molto, molto, molto scocciato, sto fatto di vita con problemi con Mastro e Anne, guarda, mi era talmente una 20 milioni, niente, era di vita pure chi sto qua mi dà con me. Comunque niente, io l'ho sentito al telefono stamattina, mi ha detto di... Ma dice Massimo, io purtroppo sto qui a Los Angeles e invece vorrei veramente essere tanto a New York, perché tenevo certe cose da fare a New York. E Venezia proprio non mi ha detto niente, cioè non è come... No. No, ma mi ha detto veramente, insomma, io oddio proprio perché, di salutare tutti, di è dispiaciuto di non essere qui, di ringraziare la giuria, di dire a voi che vi porta nel cuore, di dire alla moglie che ha trovato i calzini, poi che non trovate. Insomma, dopo di questo niente più. Io sono felicissimo, è inutile che sto qua a dire. Passa la coppa, grazie a tutti. Questa è la voce super riconoscibile di Massimo Troisi che riceve il premio alla migliore interpretazione maschile a Venezia, cioè la Coppa Volpi. Era il 1989, il film si chiamava Che ora è? Era un film di Ettore Scola e lui l'aveva vinta ex aequo con Marcello Mastroianni, cioè nel film In Che ora è? Di Ettore Scola appunto c'erano Troisi e Mastroianni, una coppia splendida che aveva vinto ex aequo insieme questo premio come migliore interpretazione. Mastroianni non era andato a ritirarlo e Troisi aveva fatto questo discorso. Vi facciamo sentire questo pezzo, questo discorso appunto perché la puntata di oggi, per due motivi, perché la puntata di oggi si intitola Non l'avevo considerato, è un pochettino diciamo un premio alla migliore interpretazione maschile, è difficile che venga dato insieme a due persone nello stesso film, quindi già è abbastanza difficile da considerare questa ipotesi, ma soprattutto perché le storie di oggi parlano di un terzo incomodo, quello che appunto nella canzone di Renato Zero viene definito, no, questo il triangolo non l'avevo considerato, anche se non si parla di storie di threesome, come si direbbe in un linguaggio spiccio, cioè non si parla di storie d'amore in cui c'è per forza un amante, o meglio in alcune sì, in altre no. In queste storie racconteremo soprattutto un'altra cosa, racconteremo di quell'eventualità che non consideriamo, soprattutto quando siamo sposati o fidanzati di lungo corso e quindi la vita di coppia è quella, c'è un'abitudine quotidiana allo stare insieme, al fare certe cose insieme e a un certo punto basta magari un occhio esterno, basta un commento, basta l'osservazione di un altro uomo o un'altra donna per farci tornare a considerare un'eventualità di noi, non per forza della nostra coppia o riguardo a quella persona, un'eventualità di noi, del nostro modo di vederci, che beh, non avevamo considerato. Oggi vi raccontiamo 3 storie e poi chiudiamo con la nostra storia seriale, che è la storia che è appunto forse la più cruda che stiamo raccontando, ma cerchiamo di farla nella maniera più garbata possibile. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Gabriele era solito fare le cose in grande. Nel salone della villa patrizia di campagna, che aveva acquistato da qualche anno, aveva fatto approntare un lungo tavolo per accogliere le 40 persone circa che aveva invitato per il suo compleanno. Io arrivai puntualmente alle 20 con mia moglie e ci accorgemmo che, come al solito, eravamo i primi, mentre tutti gli altri arrivarono più comodamente alla spicciolata, gli ultimi dopo circa un'ora. Ben pochi dei presenti erano di mia conoscenza. Un cenno di saluto ai pochi che mi pareva di avere già visto da qualche parte, veloci strette di mano e nomi prontamente dimenticati. C'erano anche degli stranieri, perché Gabriele lavorava prevalentemente all'estero. Dopo essere stato con la mia magnum di champagne in braccio per 20 minuti circa, aspettando che qualcuno mi sollevasse dall'impegno, cominciai a vagabondare per la casa. Conoscevo molto bene quell'abitazione che Gabriele aveva ristrutturato nel corso degli anni e trasformato nella splendida casa ottocentesca che un tempo era stata. Una di quelle case che si vedono sulle riviste di arredamento o di architettura, di quelle che non sembrano neanche vere, tanto sono belle e ben arredate. Una di quelle case nate per ospitare i clienti con cui intrattenere affari e per quelle grandi feste che ci accingevamo a fare. Mentre aspettavamo il padrone di casa, che solo per ultimo sarebbe arrivato, scendendo il magnifico scalone ligneo che portava al piano superiore, Maddalena, sua moglie, intratteneva i presenti zigzagando in mezzo alla gente con vassoi di tartine e bicchieri di champagne. Io, a differenza di mia moglie, non sono un bravo presenzialista. Anzi, a dirla tutta, in ragione di un consolidato complesso di inferiorità, cerco sempre di evitare la mia esposizione fisica in occasione di quasi tutti gli eventi mondani che prevedano più di 6 persone riunite in una stanza. Mia moglie, invece, forte di un'innata capacità salottiera e di una naturale performance fisica, saltellava da un capannello all'altro riconoscendo o facendo finta di riconoscere un po' tutti, facendosi ammirare per la sua verve e il suo magnifico tubino nero che metteva in evidenza la sua invidiabile linea di cinquantenne. L'arrivo di Gabriele fu salutato da un'esplosione di saluti, di baci, di abbracci, di sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle e ammiccamenti vari. Mia moglie, più informata di me, mi prese in disparte e cominciò a indicarmi sottovoce nomi, cognomi e caratteristiche di buona parte dei presenti. Dopo una buona mezz'ora di amenità, aneddoti, pettegolezzi e condivisioni di ogni genere, finalmente fummo invitati a sederci a tavola. La disposizione dei posti era libera, casuale. Mi tenni ben vicino mia moglie, sperando così di limitare i danni derivanti dalla vicinanza con troppi sconosciuti. Fu servita una lunga serie di antipasti, dei quali cercai di non approfittare troppo, ma che poi ebbi modo di rimpiangere, in quanto il seguito del menù si presentò molto meno accattivante. Di fronte a noi si sedettero una giovane signora bionda, straniera, con un ragazzino di circa 10 anni, che ci presentò come il figlio. Parlava molto bene l'italiano e io, per pura cortesia, le chiesi che cosa facesse in Italia e per quale motivo conoscesse il festeggiato. «Mi chiamo Francine e sono medico», mi disse. «Più precisamente sono oculista. Abito con mio figlio a Milano, dove sto frequentando un master di specializzazione in chirurgia refrattiva. Ho conosciuto Gabriele l'anno scorso», continuò. «Siamo arrivati da 2 giorni. Gabriele ci ospita in una delle meravigliose stanze per gli ospiti che ci sono su, al piano di sopra». A quel punto non potei trattenermi. «Beh, allora, visto che siamo colleghi», le dissi, «possiamo subito cominciare a darci del tu. Io sono un chirurgo vascolare, mi chiamo Donato e questa è mia moglie, Alberta». Questi primi convenevoli avevo già previsto come sarebbe andata la conversazione a tavola. Noi medici siamo delle brutte bestie. Già a sopportarci da soli è faticoso, ma sopportarne 2 che parlano solo di medicina è addirittura intollerabile. Le reciproche domande sul nostro lavoro nel giro di pochi minuti finirono per escludere tutti i presenti vicino a noi. Arrivati ormai al momento del taglio della torta, tutti pronti in piedi per cantare Happy Birthday, Francine mi venne vicino e mi disse: «Sai, avrei bisogno di un piccolo favore da te. Io ho una vena in una coscia. È una piccola cosa, che però ultimamente è diventata più grande e comincia a diventare brutta. È tanto che dico di farla vedere a qualcuno. Se non ti dispiace, vorrei fartela vedere». «Ma è come qui in mezzo a tutti», replicai io. «Ma no, appena finito il brindisi, mentre tagliano la torta, magari facciamo un salto in camera mia e ti faccio vedere di cosa si tratta e mi dici cosa ne pensi. E poi torniamo giù a mangiarci la torta». «Va bene», dissi. E infatti, dopo pochi minuti, senza avere potuto avvertire mia moglie che si era accalcata con gli altri convitati per la distribuzione della fetta, seguì Francine nella sua stanza. Non appena chiuse la porta, Francine si girò e mi baciò sulla bocca. La cosa fu così repentina che non mi premurai in nessun modo di ostacolare la sua mossa, del resto mica avrei potuto darle uno schiaffo. Poi lei si staccò da me e cominciò a sbottonarsi frettolosamente la camicetta di seta, esponendo un seno che esondava prepotentemente dal reggiseno, e mi avvolse un braccio attorno al collo con il chiaro intento di baciarmi di nuovo. Io, più che scandalizzato, ero completamente basito, non sapevo proprio come comportarmi. Qualunque decisione avessi preso, sia quella di darle corda e accondiscendere alle sue profferte, sia quella di andarmene sdegnosamente su due piedi, mi sembravano irrealizzabili. Accortasi del mio immobilismo e del mio scarso entusiasmo, lei mi guardò fissa negli occhi e mi chiese: «Non ti piace neanche un po'?» «No», dissi, «cioè, sì, certo, sei una donna bellissima, Francine, molto bella, ma...» Altrettanto rapidamente Francine si ricompose, si riassettò i capelli davanti ad uno specchio, poi si girò verso di me. Confesso che stavo aspettandomi da parte sua un gesto di risentimento o uno sguardo di riprovazione. Invece mi guardò con mestizia e con un sorriso appena accennato mi aprì la porta dicendo: «Si vede proprio che non piaccio agli italiani. Sei il secondo italiano che mi rifiuta nell'ultima settimana, sai? Mio padre è una persona importante», mi disse. «E la scorsa settimana avevamo ospite ufficiale Marcello Mastroianni, hai presente l'attore?» «Certo che ce l'ho presente», risposi. Ebbene, dopo la cena di gala, mio padre mi incaricò di accompagnarlo nella camera degli ospiti, che si trova in un'ala della grande casa di rappresentanza dove avvengono questi incontri. Una volta introdotto nella sua camera, chiusi la porta e cominciai a sbottonarmi la camicetta. Quando mai mi sarebbe capitata un'altra occasione del genere? Stavo per sfilarmi la gonna quando lui è venuto camminando lentamente verso di me, mi ha fatto una carezza sul volto con la mano e mi ha dato un bacio sulla fronte dicendo: «Sei una donna molto bella, ma non vedi che io sono un vecchio?» E augurandomi la buonanotte mi ha messo alla porta. Scendendo lo scalone della casa non sapevo più cosa dire. Fortunatamente ci venne incontro mia moglie, porgendoci due piattini di torta senza nemmeno immaginare che suo marito, da 5 minuti, apparteneva allo stesso club di Marcello Mastroianni. «Ore, pensavo al nostro amore giorni fa, com'era nato, sebbene contrastato.» Lo so, è stato proprio un fulmine, un baleno. Sì. Né più né meno che un botto a ciel sereno. Potrà finire. No, mai, adorata. Se un dì ti stancheresti tu di me. No, tu di me. Io no di te. Oggi, come vi dicevo, raccontiamo due storie che ci avete mandato. La prossima storia è la storia che tra l'altro avete sentito accennata anche in apertura, è la storia di una donna che dà un bacio a una persona che non è suo marito. Noi ci teniamo, lo diciamo sempre appunto, a raccontare le storie per quello che sono. Le storie non sono ideologiche e noi non diamo alcun giudizio, semplicemente raccontiamo un pezzo di realtà, e siamo molto grati ad Anna per averci mandato questa storia. La prima volta che ho baciato un uomo che non fosse mio marito, dopo 20 anni di convinta, serena e appagata monogamia, è stato 2 sere fa. Cena tra vecchi amici, lui il mio primo fidanzatino. Una storia estiva ripetuta per 3 o 4 stagioni che regolarmente si inabissava con mio grande smacco in inverno. Poi sono passati gli anni, ci siamo persi e ognuno ha fatto il suo percorso fino ad una riunione di reduci un paio di anni fa. Da allora la comunicazione tra noi si è mantenuta costante, allusiva ma assolutamente casta. La prima volta che ho baciato un uomo dopo mio marito non è stato per caso o per inciampo, no. Sapevo che sarebbe andata così e sono stata con le palpitazioni per tutto il pomeriggio e ho sperato che la cena, la solita annuale cena dei reduci, finisse in fretta perché il vero appuntamento era per il dopo cena. La prima volta che ho baciato un uomo dopo 20 anni di matrimonio felice sono tornata a casa anche prima di quello che avrei voluto, ma senza sensi di colpa. Non sentivo di togliere niente al resto della mia vita. Questo incontro c'è stato in seguito a più di un anno di messaggi, telefonate. Comunque si era instaurato un rapporto parallelo al mio matrimonio. Però tutto questo non aveva portato a casini nel mio matrimonio o a mancanza di attenzioni, anzi, mi aveva caricato a livello personale e mi aveva giovato anche il matrimonio, sinceramente. quindi io non mi sentivo un colpa, ma non mi sento un colpa nemmeno adesso. Per 20 anni ho messo avanti la famiglia, i figli, il lavoro, i doveri e il futuro da costruire. Quella rimasta indietro ero io, seppure con una vita soddisfacente, ma senza brividi, perché, beh, la quotidianità uccide certe emozioni e poi un giorno non sai più se le hai provate sul serio, un tempo, o hai solo letto troppi libri. La prima volta che ho baciato un uomo dopo mio marito l'ho fatto per farmi un regalo. Un breve, appassionato incontro di baci, in macchina, un po' alterati dal vino, le mani a stringersi sui nostri visi più che a cercare altro. Anche lui si è fatto un regalo, lo stesso, credo. Non mi sbaglio se dico che nelle storie stabili, anche quelle felici, i baci appassionati sono i primi a sparire. Non ci sono più l'urgenza, le mani che si aggrappano al collo, le frasi lasciate a metà, gli angoli di bocca, le palpebre sfiorate. C'è altro, naturalmente, più conoscenza, più fiducioso abbandono, ma quell'urgenza sublime è persa, e per sempre. La prima volta che ho baciato un uomo dopo 20 anni di matrimonio fedele, sono tornata a casa e il giorno dopo ho fatto l'amore con mio marito. È stato bello, lo sarà ancora, lo farò ancora. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose. Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. La puntata di oggi si intitola Non l'avevo considerato e, come a delle volte succede, la storia di Anna era una storia, diciamo, che nonostante fosse breve aveva un peso specifico notevole e quindi abbiamo avuto un grande piacere a raccontarla, e Anna è al telefono con noi. Pronto, ciao Anna, buongiorno. Buongiorno Matteo, grazie. Come stai? Sto bene, stanno bene tutti quelli che conosco, quindi. Senti, innanzitutto la prima domanda che io ti faccio e che probabilmente si domandano un pochettino tutti gli ascoltatori è: raccontandoci questa cosa e raccontandola quindi al pubblico più o meno di Linea d'Ombra, di Radio 24, eccetera eccetera, hai il timore che tuo marito venga a sapere, che l'ascolti? Sei sicura che non ascolta? Se dovesse ascoltarlo anche, boh, chi lo sa, potrebbe partire una discussione a riguardo o no? Allora, chiaramente il rischio c'è, perché mio marito è anche un ascoltatore. Non credo che mi riconosca, perché sa che sono molto gelosa delle mie cose. Io non sono una che partecipa sui social, trovo anche che banalizzano molto i social, i sentimenti, quindi le cose me le tengo, generalmente le tengo per me. Partiamo allora da alcuni pezzi del tuo racconto, Anna. Tu dici, in un passaggio dici, lo farò ancora. Accadrà ancora, se non ricordo le parole esatte, a cosa ti riferisci? Sì. Al fatto che vi siete rincontrati, che ti piacerebbe rifarlo ancora in futuro, pensi che lo farai o è già successo di nuovo? Scusami, innanzitutto, a quando risaliva questa... Sì, l'episodio che ho descritto si riferisce a una sera di settembre dello scorso anno. Quando io l'ho scritto proprio 2 giorni dopo che era successo, quindi era tutto in divenire. Lo farò ancora? Sì, l'ho fatto ancora. Perdonami, può sembrare pruderia, sì, davvero, però è... No, diciamo, no, fa parte, per carità. Si parla di un bacio oppure siete andati oltre? Beh, no, siamo andati oltre. Ah, siamo, ok. Siamo ad un... No, lì è stata solo una questione di baci. Dopo siamo andati oltre, okay, non essendo due adolescenti. Sapevamo dove andare a finire. Io non voglio davvero scadere nel moralismo, anche perché non, diciamo, non mi appartiene. Ti faccio le domande che di solito uno si fa in questo caso. Hai senso, sì, di colpa? Sei serena? Hai capito che questa cosa fa parte della tua vita e ci hai fatto la pace? Non ho senso di colpa, non ne ho avuti durante, non ne ho adesso. Non è un'esperienza indolore, nel senso che comunque mi sono messa in discussione. Innanzitutto non sono così cinica come avevo sperato di essere, e quindi comunque qualche strascico c'è su di me. Questo chiaramente non è che metto in discussione il mio matrimonio, che è un matrimonio tutto sommato felice. Non mi sento in colpa perché io non ho messo assolutamente in discussione e non ho fatto mancare niente al resto della mia vita, cioè la mia famiglia, mio marito, i miei figli. È che forse l'età che avanza si porta anche alla ricerca di emozioni che un tempo avevi sicuramente di più. Il problema è che poi dopo non l'ho trovate. Dopo quello che c'è stato dopo, emotivamente è stato abbastanza deludente. Questa cosa ti sgrava un po' da quel senso di colpa o da quella amarezza che provi, oppure no? No. E invece questa cosa mi fa pensare di più, perché se fosse stata un'esperienza felice, come era stata felice quella sera di cui parlo, probabilmente anche il dopo sarebbe stato vissuto meglio da me. Invece aver comunque rischiato, aver messo in discussione una situazione positiva per una cosa che poi si è rivelata emotivamente povera, ecco, questo mi dà problema, perché non mi perdono il fatto di aver reagito forse con un pochino di superficialità. Tra l'altro, Anna, tu hai scritto una cosa che è esattamente la cosa di cui ci ha parlato qualche mese fa diciamo il nostro sessuologo di riferimento, che noi sentivamo quando volevamo affrontare certi argomenti. Tu scrivi i baci nelle relazioni di lunga durata sono la prima cosa a sparire. Lui disse: io la prima cosa che dico di fare è baciatevi a lungo. E chi lo sa che invece magari la tecnica sia proprio quella di tornare a continuare a baciarsi. Non vorrei dire una cosa retorica da quarantena, visto che se ne sono dette tantissime in questa quarantena, una cosa retorica, vorrei risparmiarla a me e a te, però mi ha fatto venire in mente questa cosa, la tua storia. Anna, senti, io ti ringrazio davvero tanto per come ci hai raccontato la storia e per le chiacchiere che abbiamo fatto e la tua morigeratezza nel raccontare anche una cosa che potrebbe sembrare oddio. Credo che si possa passare indenni anche da quell'esperienza lì, se magari è limitata nel tempo. Chiaramente poi le relazioni stabili di lunga durata extra coniugali, beh, dopo danno quello, sono un altro paio di mani, problemi. Sì, assolutamente. Tra l'altro quelle credo che siano di una fatica inenarrabile da portare avanti. È già stata faticosa questa. Anna, grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, a presto. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. Si parla di incontri fortuiti, di persone che si propongono o di persone che insieme si accordano per nascondersi nell'ombra della vita, proprio varcare quella linea d'ombra, ma non troppo, non andare dall'altra parte, stare all'interno di quell'ombra e incontrarsi con persone da cui si è attratti o che si desiderano anche solo per un bacio, come abbiamo visto nella storia di Anna. Ecco, la prossima storia è la storia che è stata raccontata da un grande scrittore italiano che non si capisce mai quanto sia biografica o autobiografica, ma di fatto per quello che racconta sembra che arrivi veramente dalla sua vita, e inizia così. Ho da poco compiuto 50 anni e ho vinto il premio. Quando vinci il premio ti invitano dappertutto, e dappertutto i lettori acquistano il libro e al massimo sperano che tu sia un po' simpatico e che il libro non sia brutto. Da quel momento in poi, per tutta la vita, qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi cazzata tu scriva o dica, qualsiasi opinione abbiano di te, quando ti annunciano dicono che hai vinto il premio. Quasi un anno dopo sono stato invitato a un festival di Helsinki, dove io e mia moglie eravamo andati l'estate in cui ci siamo sposati. Quindi le ho chiesto se volevamo tornarci insieme e lei ha detto sì. Ecco, questo è l'inizio di un capitolo di questo libro che si intitola L'animale che mi porto dentro, di Francesco Piccolo, un autore, uno sceneggiatore, vincitore del premio Strega, è quello il premio a cui lui fa riferimento, in cui racconta il momento preciso in cui, dopo la vittoria di quel premio, sua moglie si accorge di una svolta nella considerazione del marito da parte di tutto il mondo, ma soprattutto da parte delle donne. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Siamo arrivati in albergo, ci siamo preparati e siamo andati all'ambasciata, dove c'era il ricevimento per tutti gli autori italiani. E appena siamo arrivati, mia moglie si è trovata improvvisamente di fronte a una situazione che non aveva per niente considerato. Per tutto l'anno del premio, mia moglie non mi ha mai accompagnato, nemmeno una volta. Per tutta la vita, da quando la conosco, lei ha avuto una reazione temperata a qualsiasi accadimento tragico o felice, come se ci fosse rimedio a tutto. Per lei non bisogna esagerare né con la disperazione né con l'euforia, mai. Quindi, quando ho vinto il premio, mi ha fatto un discorso che nella sostanza è traducibile così. Per tutti questi anni hai rotto molto il cazzo, adesso hai avuto una bella soddisfazione, di conseguenza potresti cercare di non rompere più il cazzo. Nel momento in cui ha pronunciato questo discorso, l'ho tradotto e sintetizzato, ma non era molto più complesso di così, si è rilassata, anche più di quanto non fosse rilassata da quando è nata. Si è staccata da me, ha abbandonato non tanto la comprensione e la complicità per il mio lavoro, ma ha mollato la presa. È come se avesse detto, qualora volesse rompere ancora il cazzo, non potrà farlo con me, perché io non ci sarò. C'è un dettaglio, poi, che complica ulteriormente la questione. Dopo tanti anni che stiamo insieme, mia moglie ormai ritiene che parlare con me sia una perdita di tempo. O meglio, che lo può fare se interpellata, ma occupandosi intanto di qualche altra cosa. I molti anni passati insieme hanno fatto in modo che il nostro dialogo, da essenziale, si trasformasse in una perdita di tempo. Di qualsiasi argomento si parli, questioni quotidiane o decisive. Quindi, appena comincio a parlare, lei ritiene che sia il momento di cominciare a occuparsi anche di un'altra cosa. Si gira e, parlando amabilmente, non so se educatamente, si allontana. Si mette a fare qualcos'altro, di solito incombenze casalinghe. Si potrebbe dire che parlare con me le fa venire voglia di mettere in ordine la casa o di svolgere dei compiti noiosi che fino a quel momento ha rimandato. Non c'è niente di negativo, credo, è solo che si è scocciata di stare lì, ferma, a parlare con me dopo tanti anni. Quindi si incammina e si mette a fare delle cose. Questo significa che non mi parla quasi mai stando di fronte, ma dandomi le spalle e allontanandosi. Intanto io la inseguo, le parlo e lei mi risponde. Io non la capisco perché mi parla di spalle o allontanandosi. Allora le dico, cosa hai detto? E lei dice, ma sei diventato sordo? E io dico, no, veramente sei tu che quando parli con me ti metti a fare altro. A questo punto comincia una discussione sul fatto che lei non riesce più a stare ferma e a parlare con me. Io cerco di sopportarlo, ma ogni tanto mi incazzo e dico che è offensivo. Lei ribatte, ma quando mai, non è vero che quando parlo con te mi metto a fare altro? E lo dice riprendendo a camminare, ovviamente, riprendendo a parlare di spalle, riprendendo a fare un'altra cosa. Quando siamo entrati nel salone dell'ambasciata, deve averci preceduti un po' di vento perché alcuni si erano già girati verso la porta per vederci arrivare. Chissà quante volte mia moglie ha sentito addosso quello sguardo entrando. Ma adesso è molto stupita del fatto che questa energia la sfiora perché sta venendo verso di me. È la mia, la forza che ha fatto voltare molti verso l'entrata. Non si è ancora accorta che quando comincio a parlare, adesso le persone mi ascoltano e non si incamminano di spalle per fare altre cose. Non si era accorta che alcune donne mi sorridono. E questo la stupisce ancora di più. Mia moglie non mi considera un bel uomo. Al massimo pensa che piaccio a lei, ma non si è mai chiesta se posso piacere anche ad altre persone, perché è convinta di no. E a questo punto non importa quale sia la verità, se hanno ragione quelle donne che mi sorridono o lei. Fatto sta che non ha assistito durante quest'anno a un cambiamento che a me invece è diventato chiaro, che mi diverte e un po' mi eccita. Le persone mi considerano di più, mi ascoltano di più, ma lei non lo sapeva. E così, mentre siamo nel centro del salone dell'ambasciata a chiacchierare e mia moglie è già silenziosa e stupita, una scrittrice si avvicina con atteggiamento divertito, indica una donna dall'altra parte della sala, dicendo che è la sua traduttrice finlandese e le ha chiesto di dirmi che scapperebbe volentieri con me. E poi mi ha consegnato il biglietto da visita della finlandese, dove c'è scritto a mano un numero di cellulare diverso da quello del lavoro. À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer. Ce matin, sans ton message dans lequel tu me souhaites une bonne journée. Ni mon cœur, ni mon téléphone, je ne veux plus faire vibrer. J'ai tellement peur d'être seul, tellement peur d'accepter que c'est terminé. Tu sais, je suis irrité, alors parfois je pleure de trop. En vérité, mes larmes ne servent qu'à irriguer ma fleur de peau. Sur mon lit rempli de mouchoirs, je me fais des images de guerre, en me demandant qui aura la garde de notre enfant imaginaire. Si tu savais comment je saigne, en me disant que plus personne finira mes pop-corns avant que le film ait commencé. Je me dis que c'est dingue comment quelqu'un peut tout changer autour de toi quand je trébuche sur le trottoir et qu'il n'y a plus personne pour se moquer de moi. En panique, j'ai voulu faire une croix sur toi, mettre un voile sur mon cœur, mais l'amour est un établissement laïque. Du mal à me dire que cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime. Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi, l'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki. La scrittrice ha detto tutto questo davanti a mia moglie perché lo ritiene semplicemente un gioco. Ma dallo sguardo che ci siamo scambiati, io e la donna, da una parte all'altra della sala, ho avuto subito la conferma che no, non è un gioco. Appena ci sfioriamo al buffet mi dice in perfetto italiano: «Allora, mi chiami? La settimana prossima vengo in Italia». Quando la scrittrice ha detto che la sua traduttrice voleva scappare con me, anche mia moglie ha guardato dall'altra parte della sala. Ha visto una donna bella ed elegante e ha cominciato a fissarla con un'espressione riconoscibile, anzi esplicita, che voleva dire: «Ma com'è possibile?». Tornando in hotel, siamo rimasti in silenzio. Mia moglie ha detto soltanto: «Che facciamo di quel bigliettino? Lo buttiamo?». L'ho accartocciato e lanciato in un cestino. Ho pensato che avrei potuto chiedere il numero alla scrittrice o che avrei potuto lasciar perdere. Ho pensato che in questo momento della mia vita posso fare tutto quello che mi pare. Ho un amante, Marta, di cui sono innamorato. Adesso c'è una traduttrice finlandese che vuole scappare con me e sono nel momento in cui mi sento più apprezzato come scrittore. Sono soddisfatto, piuttosto arrogante e molto desideroso di ammirazione. Volevo entrare nelle feste così, volevo che alcune donne mi guardassero così, volevo che mia moglie si stupisse così. Non c'entra con la sostanza di ciò che scrivo e dei sentimenti che provo, ma è una volontà altrettanto radicata, forse di più perché non riguarda solo me. Voglio essere ammirato per soddisfare quei fantasmi che mi girano intorno, i fantasmi dell'appartenenza alla mia categoria di maschio che, bene o male, ha avuto a che fare con la potenza per tutta la vita. Io e mia moglie non ci eravamo accorti della distanza tra noi fino a quando non siamo arrivati ad Helsinki, fino a quando non siamo entrati nel salone dell'ambasciata. Perché ci eravamo accuratamente tenuti lontani durante quest'anno e ce ne siamo resi conto soltanto lì. Mentre io non mi ero mai sentito così sicuro, lei non si era mai sentita così fragile. Quando siamo entrati in camera, mentre si metteva la camicia da notte e si lavava i denti, mia moglie ha parlato di questa distanza, di come le nostre nozze si fossero ribaltate rispetto al giorno in cui ci eravamo conosciuti. Ha detto che era orgogliosa, ma da qualche parte sentiva anche un dolore che aveva a che fare con il fatto di non essersene accorta, come se tutto questo fosse successo lontano da lei. Io ho pensato che non se ne sarebbe in ogni caso potuto accorgere, visto che mi parlava di spalle e allontanandosi, e aveva deciso di non venire mai più con me da qualsiasi parte, però non gliel'ho detto. Lei invece ha aggiunto, con sincerità ma anche con un po' di astio: «Però devi stare attento, perché sia quando siamo entrati alla festa, sia in qualche tua affermazione spudorata e arrogante durante le chiacchiere, si è sentito forte il pericolo che tu ti senta sto cazzo». Ha detto proprio così. E mi sono reso conto, con una certa soddisfazione, che è vero. Non l'avrei mai immaginato, ma adesso mi sento irrimediabilmente sto cazzo. La potenza di alcune persone, in un periodo della loro vita, la si può misurare nel momento in cui appaiono all'ingresso, di una festa, di una cena, di una riunione. Ci si comincia a girare prima che entrino, perché si sente un'energia, un vento sul collo, si sente che sta per accadere qualcosa. E a un certo punto, sulla porta, appare una donna giovane, bellissima, sicura, che forse è arrivata apposta più tardi per godersi il brivido che provoca. Negli anni ho visto entrare centinaia di donne così, bastava essere belle, bastava essere giovani o seducenti. Ho visto entrare così anche uomini, giovani e belli, e uomini e donne di successo con i soldi, con una forza momentanea o stabile. E ho assistito molte volte, con il passare del tempo, a quando arriva il momento in cui le persone non si girano più, in cui sei ancora bella e viva, ancora sicuro o seducente, ma in una festa così entra qualcun altro e tu fai parte di quelli che stanno già dentro e si girano a guardare. From the first blush of affection to avoiding your own reflection, you shouldn't look at me. You shouldn't look at me. Questo racconto molto bello è di Francesco Piccolo, vi dicevo in apertura, ed è tratto da un libro che si intitola L'animale che mi porto dentro. Mentre il libro con cui Francesco Piccolo ha vinto il premio Strega, come dicevamo poco fa, è un libro che si intitola Il desiderio di essere come tutti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare le storie dai vostri diari della quarantena. Linee d'ombra. Sono davvero decine, centinaia, forse migliaia, le piccole deviazioni, i piccoli svincoli che prende la vita in una situazione come questa, quando cioè accade un lockdown, una chiusura, una quarantena. E sono molti, però li conosciamo principalmente quelli che vengono raccontati, le famiglie chiuse in casa, i figli che non possono andare a scuola. Poi però ce ne sono davvero tantissime altre piccole sfumature che probabilmente sono, diciamo, meno importanti da un punto di vista della vita sociale di un paese, ma sono altrettanto importanti per la vita privata di ognuno di noi. E quindi cosa succede se ad esempio scatta un innamoramento poco prima che un mondo si chiuda dentro a casa? Questo è il racconto di Serena. Mi chiamo Serena, ho 41 anni e sono single da quasi 4 anni, storielle a parte. Finalmente conosco un ragazzo, o meglio me lo presenta un'amica ad una cena e da subito mi piace. È il 15 febbraio del 2020. Il giorno dopo, dopo aver chiesto il mio numero di telefono all'amica in comune, mi scrive ringraziandomi per la serata precedente, dicendomi che si era trovato a suo agio con me e gli altri miei amici, e mi chiede di rivederci. E io penso, cavolo, finalmente uno che non ci gira intorno. Vuoi dirgli di no? Certo che no. E così usciamo una sera, una seconda volta, una cena e poi un giro in spiaggia domenica 8 marzo. Mi trovo bene con lui, forse è una frase fatta, ma è diverso dagli altri che incontro durante le serate con le amiche, penso, chissà, magari. Inoltre, durante le nostre uscite non succede un bel niente, nulla, non un bacio o una mano nella mano, e sono ancora più felicemente sorpresa. Ma è l'8 marzo del 2020, e quella sera il nostro presidente del consiglio chiude tutto. Accidenti, ci hanno stroncato sul nascere. Non mi perdo d'animo. Comunque la mia quarantena passa bene, per fortuna posso lavorare da casa, ho un giardino, i miei genitori stanno bene, mia sorella e la sua famiglia stanno bene, insomma non posso lamentarmi e non mi annoio più di tanto. E poi ho un obiettivo per la fine di questa reclusione, riprendere da dove ci eravamo fermati. Passano le giornate e cerco di tenere vivo ciò che era iniziato, cioè quasi niente. Però, come si dice, batti il ferro finché è caldo. E col mio nuovo amico ci sentiamo per messaggi, una telefonata e ancora messaggi su come vanno le nostre giornate. Poi l'altro giorno mi scappa di scrivere, perché dovrei sempre contare fino a 10 in molte situazioni, sempre. Per me ci potremmo già anche vedere, potresti venire da me in giardino, ma abito in una zona che per te non è comoda e rischieresti una multa. Lui non si butta via e dice che troverebbe il modo, ma per quel poco che ho conosciuto di lui non si autoinviterebbe mai a casa mia. Per fortuna, perché io subito ci ripenso. Non si può. Ci sono le regole, nel rispetto di chi è in situazioni di rischio, perché sta lavorando per tutti noi, per quelli che stanno cercando una soluzione per ripartire, per chi non c'è più e per tutti quelli che stanno soffrendo per avere perso una persona cara. Insomma, non si può e basta. Per fortuna non torniamo più su quella possibilità, ma accidenti, cosa faccio? E così mi viene un'idea. L'hanno avuta, devo dire, tutti gli italiani. Oggi è domenica 19 aprile, è dall'8 marzo che lo vedo e tra una battuta e l'altra gli scrivo: nell'attesa che passino queste ultime 2 settimane potremmo organizzare un incontro clandestino a fare la spesa, che ne dici? E lui ci sta. Col suo fare gentile mi scrive: mi piace un sacco l'idea dell'incontro clandestino e quindi non posso che dire di sì, sicuramente. Tra una scansia e l'altra, chi l'avrebbe mai immaginato un incontro così? Adoro le persone fantasiose. E quindi sì, ci vedremo martedì 21 aprile alle 19. Ragazzi, fate il tifo per noi. Prima o poi, l'amore arriva. Supermarket giovedì. Tu lavori lì. direttore, tu lo sai. Dimmi dove è lei. Non c'è, non c'è. Ammalata forse, comunque qui non c'è. Comprerò le banane, le banane. Comprerò, ma però dove è andata stamattina non lo so. Scatolette colorate, carni rosa congelate, c'è di tutto intorno a me, ma lei non c'è, no. Chissà com'è andato quell'incontro al supermercato e chissà come procede questa storia a distanza. Nei prossimi giorni, credo tra un paio di settimane, abbiamo una storia che arriva invece da New York, che parla proprio di due persone che non si incontrano prima del lockdown, ma si incontrano durante il lockdown tramite una app di incontri e di fatto si innamorano attraverso gli schermi. Lo so che per qualcuno potrebbe sembrare un'eresia, ma di fatto succedono anche queste cose. E ora chiudiamo con la nostra storia seriale. Ormai è una settimana che abbiamo cominciato a raccontare questa storia, che è un po' diversa dal solito, quantomeno per il metodo con cui la stiamo raccontando, perché il protagonista non vuole partecipare con la sua voce, quindi gli audio che sentite sono per lo più le domande che Mauro gli ha fatto. Sentirete la voce di Mauro Pescio, che raccoglie e scrive questa storia, le storie seriali di Linee d'Ombra. Quindi la sua voce la leggerò io, come faccio abitualmente con le vostre storie, ed è la storia di fatto di un sopravvissuto, di un giovane uomo che sopravvive al tentato omicidio da parte del padre, dopo che il padre ha ucciso la madre. È una storia terribile. Noi abbiamo Mauro l'ha scoperta tramite appunto la storia del padre che sta in carcere e ha recuperato il figlio, proprio perché la storia interessante è che il figlio, non appena si è ripreso da quello che è accaduto, e qui andremo proprio al cuore di quello che è accaduto in questo episodio, ha deciso che non voleva perdere i contatti con suo padre e anzi li ha mantenuti molto molto stretti. Ora tenetevi forte, perché è vero che noi diciamo cerchiamo di non farvi guardare dove non volete guardare, cerchiamo di non essere crudi nei racconti, ma qui raccontiamo quello che succede quella notte. Niente, quella mattinata una martellata in testa e niente. Dopo mi ricordo che volevo scappare. La prima cosa che ho fatto è stata quella di andare fuori dalla mia camera. Sono stato fuori, sono stato giù, poi avevo sto taglio qua sul collo, il suono come di una stoffa che si strappava. Poi però io non ho sentito male in particolare, ho qualche flash. Ho chiamato 3 ambulanze, mi ricordo la tizia che mi faceva domande e io che dicevo te lo dico dopo, tu manda le ambulanze. Sì, ho chiamato io le ambulanze. E mi ricordo solo che dopo, non sapevo se potesse essere utile in qualche modo, ma ho preso il Lysoform, sai, quello verde, il disinfettante, me lo sono buttato, mi sono messo un asciugamano pieno di Lysoform in testa e me lo sono poi schiacciato anche sul collo. Mi ricordo questo, mi sono buttato un po' di disinfettante addosso, mi sono detto non si sa mai che possa aiutare, e dopo da lì ho aperto il cancello, ho spalancato tutto, il cancello, la porta, poi mi sono buttato in divano, mi sono addormentato, ho perso conoscenza, non lo so, comunque fatto sta, questo era. Mio padre in quel momento era a terra in una pozza di sangue e mia madre, mi ricordo, non l'ho vista, però quanto detto dalla testimonianza era distesa a terra e ci sono inciampato sopra. Questo però non me lo ricordo. Ricordo solo che mio papà aveva solo provato a... ma io l'avevo appunto trovato disteso e ho chiamato l'ambulanza. Ne ho chiamate 3 e basta. Mi ricordo soltanto tutta la stanchezza che avevo, che volevo soltanto addormentarmi. Che sì, la reazione del corpo in mezzo a tutto quel sangue a terra era quella di provare a salvarsi dormendo. Non so neanche bene come raccontartela adesso. Guarda, così va benissimo. Perché tu mi dici volevo solo addormentarmi. C'è una reazione che nessuno racconterebbe. Perché sembra non interessante, ma è una salvezza. Cioè, è una forma di salvezza che l'uomo a un certo punto... Sarà un esempio stupido, ma hai presente quando hai 1000 impegni e hai la testa che pum pum pum e arrivi a casa che ti vuoi solo rilassare? Ecco, portalo agli estremi, ma molto molto agli estremi, e ti ci puoi avvicinare. È successo a maggio del 2007, sono stato in ospedale 1 mese e mezzo. Oltre allo squarcio sul collo che hanno rimesso a posto, ho rischiato l'intervento al cervello. ho rischiato per un ematoma, dopo però per fortuna si è riassorbito, quindi tutto sommato è andata bene, riesco ancora a ragionare. Ogni giorno vi raccontiamo un pezzo di una storia seriale, questa è probabilmente la più cruda che vi stiamo raccontando, cioè il figlio di un uomo, di un uxoricida, cioè di un uomo che ha ucciso la moglie e cerca di uccidere lui, cerca di uccidere il figlio con un colpo di martello. Grazie a Luca Micheli, grazie a Mauro Pescio, Anita Panizza e a Paolo Corleoni che continuano in questa fase di lockdown a costruire insieme a me questo programma remotamente. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani per raccontare storie. Mandatecele le vostre storie intanto, lineedombra@radio24.it, storie di confine o diari dalla quarantena, noi le prendiamo e ci facciamo una puntata. A domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!